tanta merda. Aia, mi sento triste, io cerco un impiego in mezzo a riviste. Non trovo lavoro, non c'è richiesta. Ah, questa gente che non fa festa. Sono mesi che cerco un lavoro mollato. Sono lesi, lo sterco, preferisco il gelato. Sotto pesi preparo il mio corpo malato. Sono offesi perché Benedetto col dito il colpo di stato. Il medico mi ha detto che sono stressato. Io dico no, ma smetto, mi sento ingrassato. Predico corretto ma sembro ingessato. Credevo fosse gesto ma qualcosa ho sbagliato. È un brutto periodo, sono stato lasciato. E come un chiodo al muro sono stato attaccato. Peggio che cianuro, la mano mi ha saldato. Io tengo duro, giuro, ma mi sento spossato. Non voglio il privilegio di poltrire in senato. Di condurre qualche azienda e risultare un drogato. A letto provato, tra 30 anni richiamato. Rubare o lavorare è lo stesso un reato. Cerchi e non lo trovi, cadi a pezzi, non ti sfoghi. Son dolori come chiodi nelle tempie. Non c'è nessuno che sente. Io cerco lavoro, lo chiedo perdono. Io chiedo perdono se cerco un tesoro. Mi serve dell'oro, mi serve un lavoro. Si fregano loro, ce l'hanno il ristoro. Come dicevo, mi sembra medioevo. Con le membra dissacrate alla ricerca di un impiego. E con l'ego sotterrato, non so te ma io lo spiego. Lo collego al pollo, il mio alter ego è pollo. Ora mi spiego. E con Diego stavo discutendo proprio ieri sul fatto che qui tu ti trattano da scemi. Nell'atto in cui tu ti prostri ai loro piedi è un dato, ma io tratto di bisogni veri. Vivo di sogni, ma bisogna fare i seri. Così sogno che vivo, ma ad essere sinceri, anche il sogno è proibitivo. Anche se non me la tiro, è un momento troppo duro per restare positivo. Vivo ancora a casa e mi prendo del mammone. Attaccato tra i Mufasa che mi fanno il cazziatone. La mente mia si invasa, potrei fare il pappone. La gente poi mi accusa, devo fare il culo, scusa. Devo dare il culo? Proprio non ha senso. Penso lavoro onesto per avere un buon compenso. Cresco modesto, resto e lo prendo là nel cesto. Riesco ad essere come Manson. E con 500 al mese non si fanno grandi spese. Che con questo stipendio non ho queste gran pretese. Devo pagare anche il collegio, sacrilegio. Meglio avere un sortilegio e prendersi al primo ciliegio. Cerchi e non lo trovi, cadi a pezzi, non ti sfoghi. Son dolori come chiodi nelle tempie. Non c'è nessuno che sente. Io cerco lavoro, lo chiedo perdono. Io chiedo perdono se c'è un tesoro, mi serve dell'oro, mi serve un lavoro. Si fregano loro, ce l'hanno il ristoro. Vistomi senza sbocchi, mi sono dato al poker. Col sorriso di un joker, con gli occhi da cocker. Son diventato Polly Pocket, perdendo pure il socket e il PC. Non so che dire, so che lo so che sono in sì, non sono rocker. Luci fioche, voci rocche, un bici. Speranza ormai ben poche, le mie possibili. Tare mote, entrare lenti brocche, pazzo sì. E vedi in piazza foche, ah! Le giornate sono fosche, persone più losche. La gente si dispera, vede la luce nera. Si sogna la galera, ci entro se in centro rubo 100 gilera. Non era un esempio, non è la mia bandiera. Voglio tornare a casa la sera, al calduccio aspettando primavera. La primavera cosa che ho detto si spera, ho detto si sfera. Per leggere il futuro, per leggere son sicuro. Sfugge ma son duro, sfregio sono oscuro. Mi colpisci, strisci un muro. Ubbidisci, c'è un silure caricato sul tamburo. Cerchi e non lo trovi, cadi a pezzi, non ti sfoghi. Son dolori come chiodi nelle tempie. Non c'è nessuno che sente. Io cerco lavoro, lo chiedo perdono. Io chiedo perdono se cerco un tesoro. Mi serve dell'oro, mi serve un lavoro. Si fregano loro, ce l'hanno il ristoro. Aia, se sono triste, io cerco un impiego in mezzo a riviste. Non trovo lavoro, non c'è richiesta. Oh, questa gente che non fa festa. Oh, ti credo, se non si trova uno straccio di lavoro, che festa vuoi andare a fare? Tempi duri, siamo sicuri che altrimenti ci sia la soluzione? Ho i miei dubbi, sono sempre qua sul PC a cercare una qualunque occupazione, ma zero. Io non faccio festa, io niente festa, no niente festa. Io niente festa, no niente festa.